fatto, solo mi stupirei di come abbia potuto operarlo senza dubitare minimamente di quanto so. Il passo ulteriore che Ghazali compie è quindi coerente e logico. Quindi mi resi conto che quanto non sapessi a questo modo e su cui non avessi quella specie di certezza era scienza priva di sicurezza, su cui non fare affidamento. Infatti, scienza senza sicurezza non è vera scienza. Sembra a Ghazali in un primo momento che tali condizioni di certezza si verifichino nelle percezioni dei sensi. Indagai allora sulle mie cognizioni e trovai che ero sprovvisto di una scienza che avesse quelle qualità, salvo per quanto riguarda i dati dei sensi e i primi principi. Ecco dove Ghazali sembra applicare il dubbio metodico. Mi detti quindi con estremo impegno a riflettere su quanto percepivo coi sensi e sui primi principi, indagando se fosse possibile svegliare nell'animo il dubbio. Ma a forza di dubitare venni alla conclusione che non riuscivo ad accordare piena fiducia neppure alle percezioni dei sensi. Anzi, presi ad aprirmi maggiormente al dubbio dicendomi: «Donde ti viene la fiducia nelle percezioni dei sensi? Il senso più acuto, la vista, considera l'ombra che vede fissa, immobile, giudicandola priva di qualunque movimento». Ma grazie all'esperienza e all'osservazione, dopo un'ora l'ombra si rivela di fatto in movimento, non perché si muova a tratti, ma perché lo fa gradatamente, senza rimanere mai del tutto immobile. Inoltre, la vista attribuisce alla stella la dimensione di un dinar, mentre le prove geometriche dimostrano che essa è più grande della Terra. In questo e in simili casi il giudizio del senso esprime una valutazione che il giudizio della ragione contraddice. Di fronte all'incalzare del dubbio, Ghazali si convince che neppure i giudizi intellettuali danno una completa garanzia. Dissi allora: è svanita la mia fiducia nei dati del senso. Forse posso fidarmi soltanto di quei dati razionali che appartengono alla categoria dei postulati del tipo 10 e maggiore di 3. Per esempio, la stessa cosa non può simultaneamente affermarsi e negarsi, né può insieme avere inizio ed essere eterna, esistere e non esistere, essere necessaria e impossibile. Ma in quel caso, continua Ghazali, sarebbero proprio i dati dei sensi ad accusarmi di parzialità, se io preferissi loro nel campo della certezza i giudizi della ragione. Rimbeccarono infatti i dati dei sensi. Chi ti garantisce che la tua fiducia nei dati della ragione non sia come quella che riponevi nei dati dei sensi? Infatti tu avevi fiducia in noi. Poi è sopravvenuto il giudizio della ragione e ci ha convinto di falsità. Ma se non fosse stato per quel giudizio della ragione, tu crederesti ancora in noi. Può darsi che al di là della ragione ci sia un altro giudice. Se si rivelasse, potrebbe forse convincere di falsità il giudizio della ragione, proprio come ha fatto il giudizio della ragione nei confronti di quello dei sensi. Il solo fatto che finora questa ulteriore percezione non si è manifestata non prova la sua impossibilità. Ed ecco l'altra obiezione che suscita nell'animo il parossismo del dubbio. Per un poco di tempo esitò la mia anima su quale risposta dovesse dare a quell'obiezione, e i dati dei sensi rafforzarono la loro difficoltà facendo appello ai sogni e dissero: «Non vedi che in sogno credi a cose e immagini, circostanze, ritenendole solide e durature senza dubitare in alcun modo della loro consistenza, poi ti svegli e riconosci che tutto il tuo immaginare e credere era senza fondamento e sostanza? Così, se quanto percepisci attraverso sensi e intelletto nello stato di veglia può considerarsi reale rispetto a quello stato di sogno, come puoi escludere l'eventuale esperienza di uno stato ulteriore che avrebbe sul tuo stato di veglia lo stesso rapporto demitizzante che ha avuto il tuo stato di veglia rispetto al sogno? In tal caso il tuo stato di veglia non sarebbe lui pure uno stato di sogno rispetto a questo nuovo ulteriore stato? Sopravvenendoti questo nuovo stato, ti convinceresti che le tue certezze razionali non sono altro che fantasie. Descartes si porrà una simile ipotesi, come suggeriscono, ho visto degli studi recenti che ipotizzano la conoscenza da parte di Descartes di questi testi di Al-Ghazali. Comunque, per le mie considerazioni non è così importante conoscere questa eventuale dipendenza. Ma Descartes dice testualmente: infine, tenendo conto che tutti gli stessi pensieri che abbiamo da svegli ci possono venire nel sonno senza che alcuno di essi sia reale, risolsi di fingere che tutti i pensieri entrati comunque nel mio spirito non siano più veri delle illusioni del sogno. Queste sono le parole testuali. Ma il paragone però, come sempre, zoppica, e lo rileva con precisione uno studioso olandese, Mulder, il quale scrive in proposito: Ghazali arrivò al punto di ritenere inaffidabili le certezze di ragione alla stessa stregua delle certezze dei sensi. A questo punto, volenti o nolenti, il paragone con lo scetticismo di Descartes viene spontaneo. Ma Descartes usava il dubbio come metodo. Si ha l'impressione che per lui il dubbio sia solo un mezzo per raggiungere più rapidamente la certezza. Il dubbio di Ghazali invece era molto più esistenziale. E sono d'accordo in questo con il Mulder. Per Ghazali, infatti, aggiungo io, la priorità del problema religioso su qualunque altro dà una prospettiva diversa al suo stesso dubbio. Infatti Ghazali continua: forse questo stato di là della ragione è quello che rivendicano i mistici. Infatti, secondo loro, negli stati che sperimentano concentrandosi interiormente e astraendosi dai sensi, essi colgono fenomeni che valicano i normali dati della ragione. È un'allusione a quella sfera spirituale ulteriore di cui Ghazali parla più oltre nella stessa autobiografia, specialmente nel capitolo sulla profezia. Al di là dell'intelletto c'è un'altra sfera di conoscenze, un altro occhio che permette di vedere quello che è nascosto, quello che capiterà nel futuro e altro ancora, altrettanto al di là dell'intelletto, quanto l'intelletto è al di là del puro senso. E come l'esercizio della facoltà intellettiva è fase dello sviluppo dell'uomo, nella quale egli ha un occhio con cui vede diversi tipi di intelligibili che i sensi non possono assolutamente attingere, altrettanto la facoltà profetica corrisponde a fase ulteriore nella quale l'uomo è dotato di nuovo occhio, nella cui luce gli è visibile il nascosto e altri fenomeni non percepibili con l'intelletto. È la proprietà della profezia. Si colgono soltanto attraverso, e le proprietà della profezia si colgono soltanto attraverso l'esperienza fruitiva. Ghazali usa una parola, dhauk, che significa il gusto, e che ho trovato ben tradotta da McCarthy, di cui parlerò infine, con la parola esperienza fruitiva. Ma torniamo alla crisi. Ghazali formula un'altra ipotesi, oppure quello stato ulteriore è la morte. Infatti l'apostolo di Dio, su cui la benedizione e la pace, ha detto: gli uomini dormono, poi quando muoiono si svegliano. Potrebbe allora la vita presente essere un sogno rispetto all'aldilà. Di conseguenza, quando uno muore, le cose gli appaiono diverse da come le vede ora. Perciò gli viene detto: ma ti abbiamo tolto il velo e oggi la tua vista è acuta. Sura 50. Non si può dunque accordare fiducia ai principi di ragione finché rimane aperta l'eventualità di una fase conoscitiva ulteriore, capace di sindacare il giudizio della ragione così come la ragione aveva sindacato il giudizio dei sensi. E non si possono impostare raziocini capaci di risolvere il problema se appunto la ragione raziocinante è in causa. E quando mi si presentarono queste considerazioni, sono ancora le parole testuali di Ghazali, esse penetrarono nel mio spirito mentre cercavo di risolvere quell'obiezione. Era uno sforzo vano, perché l'obiezione poteva essere confutata solo con un argomento dimostrativo, ma l'unico modo di imbastire una prova è basarsi su primarie evidenze. Ed essendo proprio queste in causa, mi era impossibile costruire simile argomento probativo. Era una misteriosa malattia e durò quasi 2 mesi. Durante questo tempo ero di fatto scettico, benché non nelle parole e nello scritto. Ghazali narra efficacemente l'aspetto angoscioso, emotivo di questa lotta, che sembra voglia travolgerlo nel dubbio. Ma a un tratto la salvezza dall'errore giunge improvvisa. Finalmente il Dio Altissimo mi guarì da questa malattia. La mia anima riconquistò sanità ed equilibrio. Di nuovo accettai i dati per sé evidenti della ragione, basandomi su quelli con solida certezza. Ciò non avvenne però grazie al formare una prova o all'impostare un argomento. Al contrario, fu l'effetto di una luce che Dio Altissimo mi fece risplendere nel petto, e questa luce è la chiave della maggior parte delle cognizioni. Sbaglierebbe chi considerasse questo intervento divino e questa illuminazione che viene a liberare il sincero ricercatore della verità come un deus ex machina, la cui entrata in scena sia assolutamente gratuita e inaspettata. Ci precluderemmo assolutamente la comprensione del pensiero ghazaliano se pensassimo che a questo punto la crisi epistemologica o conoscitiva si tramuti in crisi mistica e come tale si risolva. Se l'uso metodologico del dubbio giustifica una certa assimilazione a Descartes, la soluzione del problema suggerisce piuttosto il paragone con un altro pensatore, Pascal, peraltro accostato a Ghazali anche a proposito del famoso pari. Pascal scrive infatti nelle Pensées: il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. È il cuore che sente Dio, non la ragione. Ecco cos'è la fede: Dio percepito non dalla ragione ma dal cuore. Noi conosciamo la verità non solo con la ragione, sempre Pascal che parla, ma anche con il cuore. In tal modo conosciamo i primi principi, e invano la ragione, che in essi non ha parte alcuna, cerca di scalzarli. I pirroniani, questi scettici presocratici, sempre occupati in questo tentativo, vi si applicano senza successo. Noi sappiamo bene di non sognare, anche se non possiamo provarlo al filo di ragione. Questa impossibilità prova solo la debolezza della ragione, non il dubbio di ogni nostra conoscenza, come essi pretendono. Infatti, la conoscenza dei primi principi è altrettanto certa delle conclusioni logiche della ragione, e la ragione deve basarsi e fondare il suo discorso su queste conoscenze del cuore e dell'istinto. I principi si sentono, le conclusioni si traggono a fil di logica dalla ragione, ma gli uni e le altre sono certi, sia pure per vie diverse. Perciò, aggiunge subito Casali, chiunque pensa che la rivelazione del vero dipende da prove formulate con precisione ha coartato la larghezza misericordiosa di Dio. Quando l'apostolo di Dio, su lui la benedizione e la pace divina, fu interrogato sull'apertura del petto e sul senso dell'espressione dell'Altissimo a colui che Dio vuole guidare al bene e gli apre il petto all'Islam, rispose: è una luce che Dio proietta nel cuore. È a questa luce che bisogna chiedere la scoperta del vero. Essa è proiettata in determinate circostanze dalla divina liberalità e bisogna vegliare per essere pronti a riceverla, come dice l'Apostolo: la pace su di lui, il Signore vostro, nei giorni della vostra esistenza emana fiotti di grazia, ponetevi dunque sul loro passaggio. Benché Casali parli di scetticismo, non si tratta, per dirla con Pascal, dello scetticismo dei pirroniani, bensì del travaglio interiore che lo ha portato a scoprire, per usare ancora una formula pascaliana, che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Le parole di Casali: è una luce che Dio proietta nel cuore, è a questa luce che bisogna chiedere la scoperta del vero, suggeriscono questa interpretazione della prima crisi. Infatti, i musulmani non amano sentir parlare di vero scetticismo di Casali. Osman Bakar, studiando la portata del dubbio nel pensiero di Casali, scrive: è solo nella luce dell'epistemologia islamica e nell'idea dei gradi di certezza secondo la sapienza islamica che si deve studiare e capire il famoso dubbio di Casali. Quando Casali si dà all'introspezione per scoprire la luce della certezza, non è un esercizio di scetticismo religioso o uno smantellamento della realtà oggettiva, come pretendono studiosi quali Lobermann. Casali, al contrario, va in cerca del fondo più obiettivo della realtà. Ma la tradizione intellettuale e spirituale nella quale Casali vive e pensa lo rende ben consapevole che quanto vela o impedisce di cogliere tale ultima realtà è la tenebra del proprio cuore. Questo è un articolo interessante pubblicato in The Islamic Quarterly 1986. Ma oltre a quelli di Descartes e di Pascal, bisognerebbe qui fare un altro nome, più vicino a noi, raramente chiamato in causa per capire Casali. Rudolf Otto, a suo modo, ha espresso il convincimento che la religione o il sacro non è riducibile a puri concetti razionali. Infatti, il passo che conclude il racconto della prima crisi gazzaliana fa spontaneamente ricordare, per associazioni di idee, quel bellissimo scritto che è Il Sacro di Otto, il cui sottotitolo è precisamente sul non razionale nell'idea del divino e il suo rapporto con il razionale. Scrive dunque Casali: lo scopo di queste storie è che tu sappia a che grado di perfezione è giunto il mio sforzo di ricerca. Si spinse a cercare anche quanto non ha bisogno di essere cercato. Infatti le verità primarie non possono ricercarsi, sono presenti. Quanto è presente si perde e sparisce quando uno si mette a cercarlo. Ma chi cerca quanto non ha bisogno di essere cercato non può essere tacciato di negligenza nel cercare quanto deve cercare. Ora, questo arrivare ai limiti della possibilità conoscitiva, addentrandosi nella presa di coscienza religiosa, è stato mirabilmente descritto da Rudolf Otto. Secondo lui, infatti, il numinoso è caratterizzato dai momenti del misterioso, del tremendo, del maestoso, dell'affascinante, del possente, del portentoso, ma il carattere del numinoso cui Otto dà maggiore risalto è la sua totale alterità. Il suo presentarsi affatto diverso, Gans Anders, cioè al di là di tutti gli schemi conoscitivi. Il numinoso è inafferrabile, è paradossale, trascende le nostre categorie, si sottrae al nostro concetto, è antinomico, cioè apparentemente costituito contro la ragione, senz'altro al di sopra di ogni ragione, contrario alla logica, in quanto rientra nella dialettica della coincidentia oppositorum. Ecco alcune espressioni testuali di Rudolf Otto. Il sacro è una categoria conoscitiva e di valore propria soltanto della sfera religiosa. Nella sua complessità contiene uno speciale aspetto o momento che la separa dal razionale e che rimane inesprimibile, ineffabile, in quanto elude completamente la formulazione concettuale. Da numen formerò la parola numinoso e parlerò di una categoria numinosa e di uno stato numinoso dello spirito, uno stato affatto sui generis, irriducibile a qualunque altro, quindi come ogni dato primario elementare. Pur potendosi discutere, non può assolutamente definirsi. C'è soltanto un mezzo per aiutare qualcuno a coglierlo. Bisogna condurne e guidarne la riflessione di questo qualcuno che vuol conoscere il numinoso, finché il numinoso cominci a muoversi in lui e ad affiorare alla superficie della sua coscienza. In altre parole, questo X numinoso non può propriamente essere insegnato, può soltanto essere evocato e risvegliato nello spirito dove già si trova. È questa una forma di teologia apofatica o della via negationis alla quale è giunto anche Gasali. La perfezione della saggezza, dice Gasali, è riconoscersi impotente a conoscere Dio. Forse in simile prospettiva posso capire il discorso di Obermann, Der philosophische und religiöse Subjektivismus Gasalis, di cui peraltro non mi piace il termine di soggettivismo. Certamente, scrive Obermann, nessuno ha sottolineato come Gasali l'alterità di fede e scienza. Nessuno ha insegnato con più insistenza di lui la diversità di questi due modi di conoscere per quanto riguarda il loro organo, la loro validità e la loro efficacia. Quanto all'organo del numinoso, torniamo alla luce che Dio proietta nel cuore della citazione coranica applicata da Gasali alla soluzione della sua prima crisi. Chiediamoci cosa sia per lui il cuore in simile contesto. Ce lo dice lui stesso in un libro della sua opera principale, Ravvivamento delle scienze religiose. La parola cuore ha due accezioni. La prima è il cuore di carne, la seconda è qualcosa di sottile, divino e spirituale che non può cadere sotto i sensi. Questo cuore, che Gasali chiama anche spirito, sostanza senza prezzo, nobile perla, non è membro corporeo dell'uomo, ma è quanto nell'uomo apprende, conosce, intuisce, cioè l'io continuo dell'uomo, ovvero il soggetto che pensa, sente e muove il corpo, che ne è strumento e contenitore. In breve, è l'essenza dell'uomo, hakikat al-insan. Questa accezione del cuore riconduce Gasali alla via dei mistici, già incontrati al culmine della prima crisi, e l'avvicinerà ancora più a quelli nel risolvere la seconda crisi. Infatti, dice Gasali, l'intento del sapere dei mistici è sgomberare l'anima dagli ostacoli, liberandola dalle abitudini nocive per svuotare il cuore di tutto quanto non è Dio, per arricchirlo della continua memoria di Lui. E mi apparve con evidenza che la loro precipua caratteristica è cosa che non può attingersi con lo studio, ma con esperienza fruitiva, sempre da occhio. La seconda crisi è datata, mentre la prima diciamo che deve essere avvenuta nella giovinezza, di questa sappiamo le date esatte. arte. Ghazali era professore di università, come qualcuno dei presenti, molto stimato. Quando confessa egli stesso, mi apparve chiaramente che l'unica speranza di raggiungere la beatitudine nell'aldilà era una vita pia e la vittoria sulle passioni. La condizione previa, lo sapevo, era di recidere i vincoli che legavano il mio cuore al mondo, abbandonandone l'illusoria dimora per ritirarmi in un rifugio che desse garanzia di immortalità e per dedicarmi con zelo esclusivo a Dio l'Altissimo. Ma ciò non poteva realizzarsi senza rinunciare alla fama e alla fortuna, fuggendo ogni cura e ogni attacco. Allora mi misi a riflettere sullo scopo del mio insegnamento e constatai che non ero guidato puramente da Dio, ma ero piuttosto spinto e motivato dalla ricerca della fama e di un sempre maggior prestigio. Fui dunque certo che mi trovavo sull'orlo di un precipizio e già sul punto di cadere nel fuoco, se non mi mettessi decisamente a correggere la mia condotta. Questa seconda crisi è stata chiamata conversione. La grande mistica cristiana Teresa d'Avila usa espressioni simili nel capitolo settimo della sua autobiografia. Posso dire, scrive la grande santa, che se il Signore non mi avesse illuminato e non mi avesse fornito i mezzi per conversare abitualmente con gente di orazione, a forza di cadere e di rialzarmi avrei finito col precipitarmi a testa bassa nell'inferno. Ghazali: facevo riflessione continua sulla mia vita finché avevo libertà di scegliere. Oggi risolvevo fermamente di lasciare Baghdad, togliendomi fuori dal contesto in cui ero inserito. Domani invece rievocavo quella decisione, avanzavo un piede ma trattenevo indietro l'altro. Al mattino coltivavo il desiderio sincero di cercare le cose dell'altra vita, ma la sera gli eserciti della passione prendevano d'assalto quel desiderio, rendendolo tiepido. Aspirazioni mondane mi legavano con le loro catene, perché rimanessi dov'ero, mentre l'araldo della fede gridava: su via, alzati e parti, ti resta poco da vivere, ma un lungo cammino da percorrere. Di fronte a simili pensieri, l'istanza si riaffermava e prendevo l'irrevocabile decisione di fuggire subitamente. Ma Satana tornava all'attacco dicendo: si tratta di impressione passeggera, guardati dal seguirla. Se tu l'ascolti e mandi all'aria l'attuale fama e la splendida posizione che ti sei fatta, se rinunci a una situazione sicura da qualunque contesa avversaria, può darsi che tu la rimpianga e che non sia facile riaverla. Era dunque un continuo dibattito tra i desideri mondani e l'appello dell'aldilà, che durò per 6 mesi, a cominciare dal mese di Rajab dell'anno 488, luglio 1995. Già in quel mese passai dalla libertà di scelta a una forma di vera e propria coercizione morale. Infatti Dio mise un impedimento alla mia lingua cosicché non potevo tenere i corsi. Facevo ogni sforzo per insegnare anche un giorno solo per compiacere gli studenti che frequentavano le mie lezioni, ma la lingua si rifiutava di pronunciare anche una sola parola. Questa impossibilità di parlare produsse una depressione di cuore accompagnata da incapacità di digerire. Cibo e bevanda mi divennero insopportabili, tanto che non riuscivo a trangugiare un poco di brodo o a inghiottire un boccone di cibo solido. Ciò condusse a tale indebolimento delle mie facoltà che i medici disperarono di guarirmi e dissero: si tratta di qualcosa nel cuore e di lì passato negli umori. Non c'è possibilità di cura se non si libera il cuore dall'angoscia che lo ha preso. Allora, constatando come la situazione fosse disperata e che ero ormai impossibilitato a scegliere liberamente, mi rivolsi all'Altissimo Iddio, proprio come un povero oppresso che non ha scampo, e fui esaudito da chi ascolta quanti ricorrono a lui nel bisogno. Egli infatti rese facile al mio cuore il distacco da fama e fortuna, da famiglia, figli e conoscenti, partii da Baghdad dopo aver distribuito tutti i miei beni, salvo la quantità necessaria per il sostentamento mio e dei figli, mi recai allora a Damasco e rimasi per circa 2 anni. Ero soltanto occupato nell'esercizio spirituale e nell'ascesi che praticavo in ritiro solitario, coltivando virtù e purificazione dell'anima, rendendo terzo il cuore attraverso il ricordo di Dio Altissimo, secondo il modo appreso dagli scritti dei mistici. Ero solito pregare in solitudine nella moschea di Damasco, salendo sul minareto e rimanendovi l'intera giornata dopo aver chiuso la porta dietro di me. Poi mi spostai da Damasco a Gerusalemme, dove mi recavo ogni giorno alla casa della roccia, per rinchiudermi da solo anche là. Quindi fui mosso internamente dall'istanza di compiere il dovere del pellegrinaggio, per trarre profitto dalle benedizioni della Mecca e di Medina, nella visita alla tomba dell'Apostolo di Dio dopo aver visitato l'amico di Dio. L'amico di Dio, Khalil Allah, è Abramo. E mi misi in viaggio per lo Hijaz. Rimasi 10 anni nella condizione di asceta. Menzionerò soltanto, perché altri ne traggano profitto, di aver scoperto con certezza che i mistici sono gli unici che seguono la via di Dio. Tutte le loro mozioni e tutti i loro stati, esterni e interni, sono ispirati alla luce della nicchia della profezia, e al di là della luce della profezia non vi è sulla terra luce da cui possa ottenersi illuminazione. Quando Ghazali descrisse le due crisi nella sua autobiografia, aveva ancora pochi anni di vita. Dice allora di aver già oltrepassato la cinquantina ed è morto all'età di 53 anni. La sua autobiografia può ben dirsi compendio del suo itinerario spirituale. In base a tale scritto, riassumo concludendo così la sua spiritualità. Quello che lo ha salvato dall'errore che propone agli altri è la mistica. La salvezza non viene dal kalam, la teologia scolastica, né dalla filosofia falsafa, né dai tali miti che si presumono in rapporto con l'iman nascosto e infallibile. Solo la mistica salva dall'errore, esercitando l'uomo a raggiungere la realtà per contatto, al di là dei limiti non solo dei sensi, ma anche del puro raziocinio. I mistici non soltanto hanno colto il fondo della natura dell'uomo e il suo completo rapporto conoscitivo con la realtà, ma hanno pure sviluppato una prassi coerente di questa sapienza, specializzandosi nel purificare il cuore, specchio su cui si riflette la tavola ben guardata. Il loro modo di conoscere la divinità è simile a quello con cui il profeta conosce il futuro e anche, cosa singolare ma coerente con la teoria ghazaliana della causalità, con cui l'astronomo prevede l'eclissi di luna e il medico l'efficacia del rimedio. Non posso addentrarmi in questa questione, che del resto è stata anche illuminata recentemente da uno studioso islamico che ha pubblicato un testo famoso che di solito fa paragonare Ghazali all'empirismo inglese, ma egli fa questo per alcune precisazioni necessarie. Per Ghazali il cammino della salvezza non parte dalle cose per arrivare a Dio, ma parte da Dio. Nei mistici Ghazali vede specialmente coloro che vogliono prima di tutto un contatto con Dio che non si limiti al raziocinio, ma proceda insieme con la ragione e con il cuore, proceda insieme con la ragione e con il cuore e dia alla purificazione del cuore, al dhikr, all'estasi, non minore importanza di quanta ne meriti lo studio e la scienza. I mistici sono i privilegiati del conoscere per presenza, sono quelli della visione diretta al mukashafa mistica, distinta dal muamala o ascetica, e della rivelazione al mushahada. Le due crisi di Ghazali, così intimamente connesse l'una all'altra, che unica ne è la soluzione, ovvero la via mistica, non rispecchiano soltanto il travaglio interiore dell'individuo Ghazali, ma corrispondono alla crisi di tutto l'Islam del suo tempo. L'Islam aveva avuto secoli di prodigioso sviluppo, si era diffuso numericamente e spazialmente in area vastissima, producendo una sua ricca teologia, mutasilismo, asciarismo, maturidismo, eccetera, un diritto canonico, raccolta di tradizioni, le quattro scuole giuridiche, i compendi legali, una splendida civiltà che aveva assimilato il patrimonio classico greco senza perdere i suoi caratteri inconfondibili, ma ora l'Islam correva il rischio di vedere prosciugate le sue stesse sorgenti in un fenomeno di ripiegamento su di sé e di inbreeding. Ghazali ha colto con perspicacia questa tendenza negativa del suo mondo spirituale. La porta dell'ijtihad o del contatto diretto con le fonti era chiusa e questo portava con sé il rischio del conformismo o taqlid e un progressivo irrigidirsi formale di concezioni riduttive e comunque parziali. La malattia che affligge le menti della maggior parte degli uomini, scrive Ghazali, si è impadronita anche della tua mente. Oggi veniamo indotti a credere che non ci sia altra scienza se non il fiqh, è il diritto islamico, nessun'altra dialettica che la polemica e nessun altro sapere che il kalam. La divina dottrina del libro sacro, la vera teologia, la vera saggezza e la luce sfolgorante sono dimenticate nel più oscuro oblio. Ghazali si batte strenuamente contro simili errori di prospettiva e contro il taclido conformismo. Già nella prima crisi intraprende un viaggio coraggioso, irreversibile, che spezza i ponti alle proprie spalle. Il mukallid o conformista, scrive Ghazali, è tale a condizione di ignorare di esserlo. Se infatti sa di esserlo, va in frantumi il fragile involucro del è un guasto irreparabile, frammentato.